questa maledetta città. Nubi gremisi lassù disegnavan simboli di sanguinosa viltà. Cento giorni senza mai riposo, cento giorni senza più un sorriso. Sai, oggi un altro amico è esploso, non so se voglio ancora il paradiso. Credo non sia solo un gioco tra sangue e fuoco. Credo non sia solo un gioco che nessuno mai vincerà. La vita e non lasciò felice il mondo pensando in più.